Effetto Mondo. He's our president and I would rather he not be taking something that has not been approved by the scientist, especially in his age group and in his, shall we say, weight group, what is morbidly obese, they say. E questa volta sulle parole di Nancy Pelosi diamo il buongiorno a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno Alessio. Buongiorno. Si ha fatto molto arrabbiare Donald Trump Nancy Pelosi, perché quando le è stato chiesto, Nancy Pelosi è diciamo la leader del Partito Democratico alla House of Representatives, la Camera Bassa del Parlamento americano, che è quella controllata appunto dagli americani, e quando le hanno chiesto cosa pensa della dichiarazione anche a sorpresa di Trump, che sta prendendo preventivamente come profilassi la famosa idrossiclorochina, lei ha detto: io vorrei che il nostro presidente, essendo il presidente di tutti, fosse in buona salute, perché è una persona a rischio per il gruppo di età al quale appartiene. Donald Trump ha 73 anni, e anche per via del suo peso, perché è quello che viene chiamato un moderately obese, a morbid obese, cioè leggermente obeso. Trump, in una conferenza stampa che poi c'è stata ieri, naturalmente lo hanno stuzzicato su questo, e lui ha detto che non si occupa di Nancy Pelosi perché è una donna con, testuale, problemi mentali. Quindi siamo passati dal problema fisico al problema mentale. Però in realtà sullo sfondo di questo, e ne parla diffusamente oggi sia New York Times che Washington Post, c'è un nuovo rapporto della Columbia University, che come tutte le università dovrebbe essere neutrali, non si può politicizzare anche uno studio di un'università tra l'altro prestigiosa come la Columbia University. E secondo questo studio, se il lockdown deciso da Trump in marzo fosse stato deciso almeno una settimana prima, si sarebbero risparmiati 36.000, si sarebbero ridotte di 36.000 le morti da Covid, che ora sappiamo viaggiano verso quota 100.000. Hanno ormai superato il totale dei morti nella guerra in Vietnam e in quella di Corea, che naturalmente è un numero che fa molto impressione negli Stati Uniti. Quindi il tema di come è stata gestita la crisi resta al centro del dibattito politico, e Donald Trump cerca di spostare magari l'attenzione su altre questioni. Ormai quasi tutti e 50 gli stati hanno riaperto, però resta in effetti, anche perché i numeri non scendono negli Stati Uniti, quindi inevitabilmente... Ci puoi anche ragguagliare su cosa succede quando nelle aziende si trovano dei positivi, no? In America, perché la cronaca ci racconta anche di questo aspetto. Giusto? Certo, per esempio sì, appunto riapertura delle attività, Donald Trump ha detto dobbiamo comunque ripartire, riaprire tutto, vaccino o non vaccino. La Ford, gli stabilimenti, alcuni degli stabilimenti Ford, tra l'altro tra i più importanti, quelli in Michigan, hanno riaperto, ma poi sono stati anche richiusi, in prima pagina sul New York Times oggi, ma ne parlano anche altri quotidiani, perché sono stati trovati positivi alcuni dipendenti. Tra l'altro ieri abbiamo parlato della riapertura in Corea, delle scuole, sta andando tutto bene, però per esempio in una scuola dove sono stati trovati due studenti positivi, la scuola è stata chiusa, quindi questo è quasi un meccanismo proprio quasi immediato nei paesi che hanno deciso di testare tutti quelli che riprendono la loro attività. Dove ci porti adesso? Ti porterei in Francia, perché per una volta insomma sentiamo magari un audio in francese, se vuoi, è preso da uno dei tanti servizi dedicati alla questione Renault di ieri sulla televisione francese, e parla della reazione del premier Edouard Philippe all'annuncio di Renault, sulla base dei dati pessimi di questi mesi di vendite, che potrebbe chiudere 4 degli stabilimenti che ha in Francia. Sentiamo appunto come viene commentato la notizia. Réponse du Premier ministre Édouard Philippe, le gouvernement sera intransigeant sur la préservation des sites en France. Quindi? Ecco, quindi il governo sarà intransigente, così ha detto Philippe, nel preservare l'occupazione in Francia, esattamente come nel colosso di Peugeot che si appresta a fondersi, come sappiamo, con FCA, parte di Renault, lo Stato francese è presente in Renault con una quota del 15%, quindi diciamo che è assolutamente titolato ad avere voce in capitolo, per esempio sull'occupazione, e Le Figaro titola Renault primo shock sociale della crisi sanitaria, perché se veramente 4 stabilimenti dovessero essere chiusi ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro perdute. Ma è interessante l'editoriale di Le Figaro che è intitolato Salvare veramente la Renault. La Renault ha già ottenuto prestiti di Stato proprio, mentre in questo caso ha chiesto un prestito di 5 miliardi che sarebbe garantito dallo Stato, se vi suona familiare molto, fare il parallelo molto. Con FCA. E però, dice Le Figaro, già dopo la crisi finanziaria innescata nel 2008 dal fallimento di Lehman Brothers in America, la Renault era stata colpita dalla crisi finanziaria e poi economica globale, e lo Stato era intervenuto, ma sono stati fatti necessari cambiamenti? Secondo Le Figaro no, per i motivi che abbiamo attribuito anche in passato ad altre grandi case automobilistiche come Volkswagen, che però è corsa ai ripari. Non c'erano modelli nuovi, stava perdendo il treno dell'elettrico, quindi in realtà, secondo Le Figaro, e mi viene in mente la nostra Alitalia, certo è il primo shock di questa crisi sanitaria, però parliamo di un'azienda che già prima della crisi aveva delle debolezze strutturali che non si era riusciti a correggere. Quindi Le Figaro, tra l'altro, si chiede: ma è giusto salvarla in questo modo, cioè semplicemente prestando altro denaro? Perché in realtà a medio-lungo termine potrebbe non essere competitiva comunque. Senti Giulia, facciamo la app e poi riapriamo. È diventata una specie di tic da tutte le parti, no? Anche noi dovevamo fare la app e poi riaprire, invece abbiamo appena riaperto, poi forse faremo la app. E succede anche in Gran Bretagna. Sì, proprio, guarda, sembra davvero, adesso io capisco che giustamente uno si occupa dei problemi di casa propria, però le attenuanti insomma possono anche non essere gradite da alcuni, però appunto nel Regno Unito è successo esattamente la stessa cosa. Il primo giugno, anzi diciamo che lì c'erano ancora più aspettative, perché il primo giugno avrebbero dovuto riaprire le scuole, esatto. L'equivalente delle nostre elementari, grazie a questa app che sarebbe servita a tracciare i contatti degli insegnanti, dei genitori, magari anche dei bambini. L'app non è pronta, forse non lo sarà neanche per il tipo la prima settimana di giugno, e quindi il National Health System e l'Associazione dei Medici, che nei giorni scorsi aveva detto ma sì, tutto sommato facciamo questo sforzo, prendiamo questo rischio calcolato, apriamo almeno le scuole, con diciamo andando contro il parere di grande parte dei sindacati, degli insegnanti, adesso sono tutti spiazzati, perché la condizione tra l'altro annunciata da Boris Johnson era appunto questa app, che però evidentemente è difficile da mettere a punto in ogni paese. In Israele in realtà vogliono continuare a usarla anche adesso che si sta, con relative polemiche, anche adesso che si va verso la riapertura dei ristoranti il 27 di maggio, però l'app resta uno strumento che nonostante in qualche modo metta in pericolo la privacy dei cittadini, verrà ancora usata. Ecco, e se non abbiamo l'app ci metteremo le mascherine come obbligatorie, no? Come vogliono fare in Spagna. Sì, c'è una foto di Pedro Sanchez, las mascarillas ya son obligatorias, titola El Mundo. Sanchez che se la mette ieri in Parlamento, perché da oggi sono obbligatorie ovunque. E per chiunque abbia più di 5 anni, quindi insomma. Però la Spagna sta anche lavorando molto, ti dico quest'ultimo spunto perché è importante anche per noi, scrive El País, per cercare di preparare al meglio l'arrivo dei turisti, auspicando che arrivino anche dall'estero, che ci siano delle regole chiare, o che magari non ci siano, sull'obbligo di quarantena al rientro o all'uscita dal paese, quindi rientro nei paesi di origine, perché la Spagna naturalmente, come l'Italia, sul turismo si gioca ci una conta. Bella parte del suo PIL. Grazie Giulia, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. Ciao Giulia Crivelli, Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi. Ciao, buona giornata.